e se lo stavi aspettando. Qui sul micro 2009 in connection P-City. Quanto cazzo di tempo è passato, raga? Oh, fuori con lo street album. Sì, sì, Trifo. Buonasera, bella gente, Italia civilizzata. Buonasera, suoi abitanti, oggi è una bella giornata. Una stella riflette la sua luce nel mare. Pensa quanto sono fiero di stare nello stivale. Buonasera, brava gente, con lo smoking, la cravatta. Io la busta, la sostanza e le smoking in tasca. Che ne pensi di sta musica? Preferisci narco, te, Berlusca e Sciallo? Non c'è crisi, quindi tutti ad arcore. Fammi espatriare, sbarco, resisto, insisto all'attacco. Sì, è PCT, se devasto da KR qui con l'Intercity, ne? Chiamami Trifo se ti scazza troppo tri. Meglio se ti ritiri, trito le tue carte e giochi a flip. Tu sei un vero trip se inizi a far freestyle. Nel senso che dopo un po' non vedo l'ora che te ne vai. Ma quali king, ma quali re, ma chi vi ha programmato? Uguali sì, ma uguali a me, chiamami triclonato. Ti sento, stai bello incazzato, amico, complimenti. Ma se poi non scendi in piazza, di che cazzo ti lamenti? Sono single, non più fidanzato, da quando ho collezionato fighe più occupate di un telefono staccato. Alle tipe di Piacenza la coscienza, io le chiamo ciabatte perché sono educato. Se tiro un po' le palle, ascolto Umbrella. Se tiro un po' Barella, tremano mani in mascella. Io tiro a fine mese, giù a pane e cipolla. Ma se tiri troppo la corda, poi si spezza pure quella. C'è crisi, ora stai nei miei panni. Qui a casa mia c'è crisi, da 24 anni. Li senti, si mi affanni, mi muovo fra i tuoi inganni. Come tra l'infrarosso, con tanto di raggi X. Dammi solo una base per potermi sfogare. Fammi, ti spazio, voglio il posto che mi vuoi negare. Drammi familiari, grammi da spaccare, traumi da filiari, stammi ad ascoltare. In bocca sulla traccia, entra e ci senti come suona. Sbriccia come un caccia, nuovi stili, nuova scuola. Non sarà una volta sola che ti piaccia o non ti piaccia. Io ti reputo un coniglio, il mio hobby è la caccia. Carta straccia e mi stracci, la prendo come minaccia. Rilassati come mamma quando mi guarda le braccia. Mi vedi in faccia con l'occhio che si appanna. Ma l'apparenza è come la tua troia, inganna. Stirro punta la tua arma sulla mia testa e fai fuoco. Tanto poi ci ritroviamo e su mettiamo a posto dopo. Stirro, guardami meglio se c'ho il corteo per lavoro. Vero, anche tu saresti qui con lo striscione se io non c'ero. Sono l'ultimo esemplare della mia specie. Quelli che ancora credono alla pace. Se c'è il rega che manda buoni messaggi, ascolta e tace invece. Ci si unisce per dividersi, sì. Fa guerra per la pace, tutto è proprio come penso. Si urla per il silenzio, cerca sguardi di consenso. In mezzo al buio intenso, immenso. Lo spazio che illumino, poi mi illumino d'immenso. Media Piacenza e Genzio. P-City, matricola 300, 2009. Periodo di impiantagione. TDS Tiro. Fuori con le strisdate, buona scuola.